pace, pace, mio dolce tesoro. Io conobbi la voce che adoro e che impresso io servo nel cuore. La mia voce, la voce che adoro, pace, pace, mio dolce tesoro, pace, pace, mio dolce amore. Susanna, Susanna, Susanna, Susanna.